buonasera a tutti e a tutte. 8 minuti e inizia. Abbiamo anche un ospite speciale che sta un po' preoccupata, però dai, è tuo amico, Vediamo chi ci volesse aiutare a suggerirci informazioni in chat, venendo sul sito transizionedifase.org, a suggerirci informazioni su come è andata la manifestazione di ieri, appunto, del Movimento Lotta per la Casa, visto che non abbiamo saputo granché. Quindi transizionedifase.org, cliccate su chat e seguite le istruzioni. Buon ascolto a tutte e a tutti. Gira, mi inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah! Wow, wow, il cobra, ah! Il cobra non è un vampiro, ma un lavo sospiro che diventa un impero quando vedo te. Come sempre invitiamo tutte e tutti che sono su Skype a entrare in chat, così alleggeriamo la nostra banda, grazie. E un saluto speciale a Il, che è appena entrato in chat. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando amo te. 20:57, aspettiamo le campane di Plaza de Vittorio per iniziare questa trasmissione. Un saluto anche a Bodine e a Scarf. Ciao belli! Le campane di Piazza Vittorio suonano le 21 e sta iniziando. Salute e felicità e quindi Caribou San sigla. San. We'll be right back. 06, saluto e felicità, è nuovamente qua per la sua ottava puntata. Minchia, stiamo diventando grandi, eh beh, se va avanti. E questa sera stiamo invecchiando addirittura, ai ai ai. E questa sera tantissimi, cioè abbiamo una fila di ospiti, una fila che sta qui fuori l'iglu di Piazza Vittorio. Alcuni digitali, alcuni virtuali, ma alcuni reali. Ne digitali. Tocchiamo una adesso, proviamo? Sì. Ciao. E la voce che avete appena ascoltato era quella di Michela, una compagna del collettivo di femministe e lesbiche La Mela di Eva. Wow. E Michela fra poco ci racconterà qualcosa di interessante. Ma prima di iniziare subito a bomba, che possiamo dire? Che sono le 9, che è domenica, che neanche oggi era primavera. No. Che ci siamo mangiati delle lasagne buonissime a pranzo. Grande scarf, grazie, super buone. Sì, e oggi che c'era? Oggi c'erano tante cose. Una delle cose che noi abbiamo scelto di fare è stata andare a mangiare all'Orto Insorto. L'Orto Insorto è uno spazio di terra a Via degli Angeli, vicino a Torpignattara, a Roma. Mm-hmm. E era un posto che dovevano costruirci delle case con il nuovo piano case della Regione Lazio, bla bla bla bla. E invece magicamente, anzi... Non magicamente. Grazie all'auto-organizzazione e grazie a diverse assemblee si è riuscito a prendere quel posto, autogestirlo, e adesso c'è un piccolo orto e un gran bello spazio di terra dove masse di giovani e non, e bambini e anziani vanno a fricchettonare di domenica, come abbiamo fatto noi oggi, ascoltando buona musica. Quindi direi che è stata una buona domenica, no? Sì, sì, tutto sommato è andata bene, dai, si può fare. Michele all'Orto in Sorto non c'era, però... è qui stasera con noi, ma oltre a Michela che ci racconterà un po' di cose sulle donne e la crisi, di che cosa parliamo stasera? Di tantissime cose, della sentenza della Corte di Cassazione sulle coppie gay, infatti avremo un ospite, come diceva prima il conduttore, non reale ma virtuale, che è un avvocato con cui ci collegheremo via Skype, Francesco Bilotta. Poi parleremo come sempre di politica, di quello che è successo, di Notav, perché seguiamo ancora questa cosa, e poi parleremo dell'oroscopo, della nostra rubrica culinaria, un sacco di cose come sempre, però vi lascerei alla musica e adesso vi mettiamo... No, il conduttore vuole dire qualche cosa, mi guarda... Volevo sentire la voce di questa ospite... Tipo prima della musica. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Michele. Aspetta che non gli hanno alzato il volume. Vedi, no, il volume è alzato. Vedi un po', prova. Ciao, sono Michela e sono del collettivo di femministe lesbiche La Mela Dieva. Ciao Michela. Va bene. E quindi il solito invito c'è: chiunque passi per l'iglu di Piazza Vittorio, portateci del vino, così Michela si rilassa. Ora la musica, James Brown con Take Some, Leave Some. I need some dust to change this bus. You can have it all. Do you know where I'm coming from? You can't be greedy. You gotta take some and leave some. I've never been a cat who wants all. E lo sappiamo che si sentiva poco il microfono prima, lo sappiamo. Call me. the hustlers. Live and let live. You know where I'm coming from. Just take some and leave some. I don't want all, just want a little bit. Don't want it all, good God, take me. Just want a little bit. You gotta take some, leave some. Take the cake, so many people on the take. James Brown non ce ne vorrà per aver tagliato 3 minuti del suo lunghissimo pezzo. Rieccoci qui in voce. Te sei gordito, conduttore. Ciao a tutte e tutti quelli che sono entrati in chat. Ciao Chloe, l'hai fatta bravissima, così non ci rubi banda da Skype. Grazie. Grazie, e direi iniziamo. We start. We can go. We can start the interview to Michela. Oh yeah. Devo parlare? Bellissimo stare qui e guardarla, perché insomma è un po' che la conosciamo. La faccia del panico. Rilassata. Anch'io, cioè veramente anni e anni che non la vedevo così rilassata. Quasi come durante una manifestazione. Ma il femminismo fa anche questo, riesce in qualche modo a dare parola anche quando l'ansia c'è. Come stai, Michele? Benissimo. Ottimo. E allora, stasera, come vi abbiamo accennato tramite questa settimana di informazioni, volevamo un po' parlare dell'argomento donne sull'orlo di una crisi, che non è un argomento in sé, ma è il titolo di una volantonetta uscita un mesetto fa dal collettivo di femministe e lesbiche a Manadiera. Niente, abbiamo trovato che sta col dito sul volume, trac, trac, trac, e non si sente una mazza di niente. Com'è possibile? Io credo che dovete lavarvi le orecchie. Non è possibile. Dello spirito di James Brown, che si voleva prendere i suoi 2 minuti di brano, 3 minuti di brano che gli avevamo tagliato, eccolo qua. Oh, pronto, sa, prova, sa. Avete sentito? Credo che adesso si senta, quindi molto bene. E allora, stavamo per iniziare un po' questo capiamo che cos'è questa volantonetta, che è? Che è quella cosa là? No, innanzitutto... Ciao Michela! Ciao. Parla! Mi sentite? Sì! Ok. No, innanzitutto una cosa. Psicovale ha detto che la volantonetta è uscita un mese fa e è sbagliato. Ecco, nel senso iniziamo che la volantonetta bene. È uscita una settimana fa, dopo un lunghissimo lavoro che, diciamo, è stato... sostenuto da discussioni e a seguito, diciamo così, della nostra riflessione sulla necessità di provare a dire due cose di senso in più rispetto a quelle che ovviamente ci propinano i media, ma anche rispetto a quella che è un po' la vulgata anche della sinistra, secondo cui in qualche modo la crisi economica di cui sentiamo parlare e che ci ha investito ormai da parecchi anni, se non sbaglio è dal 2007 più o meno che conviviamo con questo spauracchio della crisi,

Ciao Martis. Jump up and shout now, jump up and shout now, jump up. E ci siamo, signore e signori. È lei o non è lei? È lei o non è lei, secondo 14 me? Chilometri, vado avanti io che vai avanti tu. Che dai un po'. 22 e 28, è tardissimo. E come al solito abbiamo altre 2000 cose che vi vogliamo dire. Ma, prima del nostro nuovo ospite Francesco Bilotta, che ci parlerà della sentenza della Corte di Cassazione di questa settimana, non possiamo svangare dalla nostra cazzata della settimana, il nostro The Best. Ci dai un po' di musica sotto, baby? Tom. Eccola. Tom. E lei, Tina Turner. In netto ritardo come sempre sulla scaletta. Siamo noi, salute e felicità. Il The Best, ovvero la cazzata della settimana. E ciao Ugo. Dopo le statuette che ti salvavano dalla precarietà. Era l'acqua di Ancona! Merda, scusate. Ciao Felix! Anche che la cazzata è inerente a quello che ci sarà dopo, no? Iniziamo a dare qualche piccola anticipazione. E chi avrà vinto questa settimana? Dai. Rullati tamburi. Qua è sfuggito il Valentine's. Ebbene sì, Simply the Best. Ed eccola. E questa settimana vince un fantastico intervento di un certo Vittorio Sgarbi. Oh. Che dice: hanno vinto i gay. Woohoo! Avete vinto! E noi? No, no, i gay. Hanno vinto i gay. Che è successo? Le pensioni? L'assistenza sociale? La casa? Che cosa? E lui nell'articolo, diciamo, inizia con delle riflessioni che, tutto sommato, uno legge l'inizio dell'articolo e dice, ma... No, Sgarbi riflette pure, cioè ha queste genere di ambizioni... Vabbè, forse sono stata io che mi veniva a riflessioni, però forse, riflessioni meglio. Parte di Sgarbi, ecco, non lo so. Però lui inizia dicendo questa cosa, la taglio un po' anche velocemente perché siamo... Per carità divina, ti prego, sì, tagliala breve. La taglio, ve prego, giuro. Prego, vada. Lui dice... Sì. Nozze gay, dunque. In che senso? E dico gay. Ah, ok. Io ho detto lesbiche, trans, gay. Da paura. Gay, poi lui. Zitta, no? Zitta. Nozze gay, madonna mia, ma tu siamo fissate pure noi, eh? Perché annegare a due uomini, attenzione, o due donne di unirsi come sposi in una regolare famiglia riconosciuta dallo Stato? Ecco, perché negarlo? Siamo perché d'accordo? Negarlo? Siamo Ce d'accordo. Lo chiediamo da un po' di anni. Possono forse i sentimenti essere limitati dai sessi? No. No, no, no. Cioè, Vittorio Compagno praticamente. Sì, sì, sì. Già. Dopo, oh mio Dio! Dopo Fini partigiano Vittorio Compagno. Ne ho timore, mi si gonfiano i capelli. Sì. L'anno scorso difendeva egregiamente il 25 aprile. Chiaramente. E per chi segue i precetti di una religione, i principi morali vigono comunque come scelta di fede senza ledere i diritti civili di chi non crede. Ammazza. Addirittura. Cioè, sembra... Ma vabbè. Cioè, ha detto, non è importante l'orientamento, non è importante la religione. No, questa è Mario questa è la pozione Mario Monti. Attenzione, però. Perché dopo un po' dice... Mi ero drogato. No. Scusa. Era l'MD. Ma sta canna era finita poi. Però buona sta... Però ammazza come che si chiama l'erba quella buona di Amsterdam? Non mi ricordo. Va bene. La super qualcosa. La super skunk. La super... No? La White Russian. La White Russian ci suggeriscono dal pubblico. Facciamo cadere questa cosa così. Yes. Tutto giusto e logico all'apparenza. E qui insinua il dubbio. Eccoci qua. Vai, parti. Un po', eccetera. Dice: la questione della famiglia e delle unioni in realtà è un po' più spinosa. Ecco, aspetta lo stacchetto. Vai. Spinosa e non spinosa. Dai, Sgarbi, ti mettiamo pure sto stacchetto, infatti, dai. Infatti, le ragioni che hanno mosso e muovono queste rivendicazioni non sono di natura etica, ma pratica. Quindi non religione, quindi non riguardano l'assistenza, l'eredità, le pensioni. No, certo no. Come dire. E poi fa una caduta di stile un po' così. Ecco. Nel corso dell'articolo non vi leggo per non tediarvi, però dice a un certo punto... Sicuramente a un certo punto si muove il ciuffo, e si ripiglia e dice... Ecco. Sono scomparse le figure della ragazza madre e del finocchio costretto nel suo ghetto. Ecco. Finocchietto. Vabbè, sono scomparse, dunque, basta andare a via San Giovanni Laterano, ci pare che già un pochettino... Dunque, che cosa pretendere ancora? Ecco. Ma io non lo so. Cioè, Sgarbi forse non lo sa, però due cose forse le possiamo pretendere, che dite? Ma infatti ora chiediamo un attimo a Bilotta. E qui si apre la resistenza di un governo alle prese con il contenimento della spesa pubblica. Attenzione! Quindi quello che dicevamo prima con quello che diremo poi l'ha sintetizzato Sgarbi, cioè crisi, froci e lesbiche, perché no? Che succede? Che il presidente del Consiglio Mario Monti... Non chi, per scusa? Quello di Mario Monti, l'antipasta all'italiana, roba. Sì, ce l'ho presente. Cioè, quello dell'accisa sulla benzina, sì, mortacci sua, 15 euro sta settimana. E Quinto dice che la voce di Mike, buongiorno, li mortacci tua. Soprattutto ritrovato, Max. Non per questioni di principio o perché è cattolico praticante. No. Ma no, tutore della stabilità del bilancio dello Stato. Certo, attenzione. Certo, sì. Come intervenuto sui limiti temporali delle pensioni, così non potrà moltiplicare le pensioni di reversibilità. Raga. Invocate e pretese non appena entrate in vigore con le unioni di fatto. Quindi? Io, cioè, ho capito, non te sei sposato. C'è un compagno, te l'abbiamo riconosciuto. Ecco. Sei pure un po' malato perché, come dire, c'è un compagno e non una compagna. Mia cara Picchionera. Vuoi pure la reversibilità della pensione. E gravare sulle spese dello Stato. E poi, chi, e poi chi paga? Poi chi paga? Pago io? Ma manco per niente. Quindi il problema delle ipotetiche coppie di fatto è che non ci stanno abbastanza pensioni da reversare. Capito. Abbastanza soldi per fare le pensioni delle reversibilità. No, diventiamo un peso economico. Capito, cioè abbiamo un peso in questa società. Vorresti dire solo nel momento in cui si tratta dei pippi, perché se no va bene, va bene. Va bene, lui aggiunge: ti piacciono i pippi? Che quello che valeva in realtà soltanto per marito e moglie varrà per marito e moglie e moglie, bravo, in un vertiginoso incremento della spesa pubblica. Capito? Cioè, ora il default che è imputato ai gay e alle lesbiche è fantastico. Cioè, siamo miliardi, ragazzi. Cioè, ci sta dando della maggioranza assoluta della popolazione, proprio. E dal momento che ragioni materiali sì. e non ragioni morali hanno Giammai. Determinato la decisione del Parlamento europeo, certo. Monti dovrà impedire la bancarotta dello Stato. Ecco, ci siamo noi, la bancarotta dello Stato. Limitando l'efficacia delle unioni di fatto ecco. alla sola sfera etica. Ecco, sì. Solo così, chiude, si potrà salvare lo Stato da una certa dissoluzione economica, attenzione, ecco. e non morale. Eccoci qua. Per la serie, te faccio il servizio sì, ecco. e te lo scrivo. Cioè, non è più un problema di morale, non è più un problema di etica, non è più un problema di legge, è un problema economico. Vabbè. Ma come ci cita la prof in chat, pensione, ma quale pensione? Definizione di allucinazione, percezione senza oggetto, ovvero oddio, la pensione, bella, fantastica, fantastica. E allora 22:39, un po' yeah. di musica, Vittorio ecco, per noi con questa cazzata, gay e lesbiche se in coppie di fatto creeranno il default di questo paese, va bene così, diciamo l'importante che sta sulla è che ci credi tu. Scusa, sta sulla stessa linea d'onda della Macarena Tav. Assolutamente sì. Passo io che passi, passi tu. Te. Era questo... 22:39, salute e felicità. Fra l... ci sentiamo un paio di pezzi e poi andremo in diretta con il nostro ospite Francesco Bilotta e con lui parleremo un po' proprio di questa questione, quindi yeah. del diritto alla vita familiare yeah. e la sentenza della Cassazione di questa settimana. Rimanete con noi, 22:40, salute e felicità. Questo, del chat. E questo brano si chiama Oye come va. Oye come va, come va, come va, come va. Che ne so, bello mio. Thank you.